Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:21 minuti, eccoci pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori, siamo qui, vi ricordo che parleremo oggi di che cosa alle 8:15, beh, parleremo di questa vicenda del Datagate, no? Avete sentito, è assolutamente uccel di bosco questo Edward Snowden, la talpa che avrebbe riferito di questo sistema americano di controllo totale dei nostri dati in nome della sicurezza, della battaglia al terrorismo. È un qualcosa che pone la solita domanda: a cosa siamo disposti a cedere in termini di privacy, di controllo, se ci dicono che bisogna controllare perché bisogna stare più sicuri? Voi temete questo tipo di controlli? Anche il garante della privacy in Italia ha detto: attenzione, ci sono dei grandi colossi che ormai con internet sanno tutto e forse troppo di noi. Ma si intreccia davvero con la sicurezza o presunta sicurezza nazionale o internazionale. Di questo parleremo alle 8:15 con i nostri ospiti. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali che trovate in edicola. È mercoledì 12 giugno, intanto i titoli: Il Sole 24 Ore apre sulla decisione attesa probabilmente per domani della Corte Costituzionale tedesca sullo scudo antispread. I falchi di Berlino spaventano i mercati, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece misure per giovani e imprese, il Messaggero: fisco e lavoro, meno vincoli, mentre Libero mette un Enrico Letta dormiente, questo in un disegno, il titolo è Letta svegliati. Avvenire: la strada del fare, c'è questo decreto del fare, come è stato soprannominato così. A me la terminologia, diciamo, dà sui nervi, questa è la versione edulcorata. Su Twitter, nel mio profilo Alino Milan, ho messo la versione più cruda di quello che mi suscita già questa espressione decreto del fare. Comunque, La Stampa intervista il ministro Cancellieri: meno gente nelle carceri, questo è il titolo di apertura della Stampa. Repubblica invece si butta su Grillo e la politica, sfida di Grillo, referendum su di me. Così il giornale, rivolta contro Grillo, mentre l'Unità: Grillo dalle stelle alle stalle, la polemica con una senatrice. E anche il Manifesto: la senatrice attacca e Grillo la caccia, non vale niente. Ma il Manifesto mette anche le foto di Piazza Taksim con gli scontri a Istanbul, il titolo è Istanbul Calling. Mentre il Fatto Quotidiano apre su una notizia che vedremo tra poco: lobby gay in Vaticano, la denuncia di Francesco, del Papa. Il Papa, lobby gay in Vaticano anche per il secolo XIX, una notizia che vedremo tra poco perché ha fatto davvero il giro del mondo, se queste parole sono state davvero pronunciate dal Papa, perché c'è anche un po' di mistero su questo. In ogni caso, prima voglio partire dalla classica notizia: mani sul volante, cari ascoltatori. Ricordate che spesso ne abbiamo parlato della revisione dei tribunali del sistema giudiziario in Italia, una revisione che era prevista dallo scorso governo, governo Monti. E il Parlamento, appena si è insediato, cosa ha fatto? No, non si possono cancellare, rivedere, accorpare i tribunalini. No, non si può fare. Ecco, a proposito di decreto del fare, cominciate a fare questa cosa banale che era già prevista dallo scorso. No, fanno il decreto del fare, che poi chissà, per ora è il decreto del dire, poi faranno. Intanto quello che possono fare non lo fanno. Eccolo qui, ieri, Napolitano: è scandaloso rinviare la riforma, l'appello del capo dello Stato, intervenendo, come ricorda il Corriere della Sera, e ricevendo, per la verità, alcuni magistrati, giovani magistrati tirocinanti. Il Presidente della Repubblica parla di scandalo di fronte a chi vorrebbe rimettere in discussione la riforma dei tribunali. Ma sentite nell'articolo di Dino Martirano, a pagina 8 del Corriere della Sera: interviene Napolitano, ma la commissione giustizia non si ferma. Ecco, a proposito di decreto del fare o di fare, non fanno manco quello che potrebbero già fare, ma fanno il decreto del fare. La commissione giustizia del Senato ha risposto al capo dello Stato rilanciando una nuova proposta al governo. Se il ministro Cancellieri è favorevole a varare un decreto legislativo correttivo che contenga anche un rinvio di 3 o 4 mesi della riforma, rinvio, allora la nostra proposta di legge sulla proroga di un anno può essere accantonata. Avete capito bene, cari ascoltatori, siamo alla trattativa. C'è la commissione giustizia, tutti i parlamentari volevano rinviare di un anno questa, sempre perché si rinvia in Italia per non fare, appunto. Se però il ministro Cancellieri ci concede almeno 3-4 mesi di proroga, almeno siamo disposti a far cadere la proposta di rinvio di un anno. Siamo così al mercato dei buoi, delle vacche, dei mesi di proroga delle riforme. Ha fatto bene il capo dello Stato, ha fatto benissimo a dire scandaloso. Ancora il Sole 24 Ore a pagina 13, tribunalini avanti con i tagli, Napolitano, è scandaloso rimettere in discussione la riforma. Come scrive nell'articolo Lina Palmerini, ma c'è anche la nuova mappa di tutti i tribunali, come questa riforma prevederebbe il riposizionamento di tutti i tribunali con alcuni accorpamenti, ma vedrete, si arriverà all'ennesimo scandalo, appunto, come dice Napolitano. Io voglio appunto andare su questa notizia che in Vaticano c'è una lobby gay. Questa frase che è attribuita a Papa Francesco, perché? Perché Papa Francesco nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione in un incontro privato, una delle udienze del Papa, una delegazione della Chiesa sudamericana. Ebbene, che succede? Che succede che in un sito cileno, Reflexión y Liberación, sono stati resi noti dagli stessi religiosi alcuni contenuti di questo incontro, di questa udienza papale assolutamente privata, e il Papa avrebbe detto sì, è vero, c'è. Tra le altre cose avrebbe detto c'è una lobby gay in Vaticano, vedremo cosa si può fare. Lo sfogo con un gruppo di missionari finisce su un sito cileno e fa il giro del mondo, qui c'è corruzione, così titola pagina 6 il Secolo XIX, ma così anche il Fatto Quotidiano a pagina 4, il Papa in Vaticano, lobby gay e corrotti contro le riforme. Così la Stampa, il Papa, c'è una lobby gay in Vaticano. Beh, la notizia ha fatto davvero il giro del mondo. Lobby gay in Vaticano, i timori del Papa, così il Messaggero. È interessante vedere come la tratta Avvenire. Lo mette a pagina 15, il quotidiano dei Vescovi, il titolo è Dal Cile parole su aborto, religiosi e curia. Già il titolo parla di altro. L'indiscrezione, si racconta di questo incontro con esponenti della Confederazione Latinoamericana dei Religiosi, il 6 giugno scorso sono uscite queste notizie, queste parole, tra virgolette, presunte citazioni papali, scrive Avvenire. Dopodiché la conferenza, appunto, da Confederazione Latinoamericana dei Religiosi ha lamentato profondamente la pubblicazione del testo, fatto senza alcuna autorizzazione, spiegando che non c'è stata alcuna registrazione, ma semplicemente si è trattato di una sintesi elaborata in base ai ricordi dei partecipanti. Si ricorda anche che il portavoce Vaticano, padre Lombardi, ha detto non c'è nulla da commentare perché era un incontro di carattere privato. Certo, poi si racconta che secondo questi religiosi Papa Francesco avrebbe incoraggiato i religiosi a avanzare verso nuovi orizzonti, avrebbe tuonato contro l'aborto, definito sempre un male, e questo è chiaro, avrebbe parlato di preoccupazioni, una della corrente pelagiana della Chiesa, cioè un riferimento a un gruppo di restauratori, l'altra una sorta di gruppo New Age, un gruppo panteista della Chiesa. Ed ecco, verso la fine dell'articolo, solo una breve citazione, c'è anche, avrebbe detto Papa Francesco, un flusso di corruzione, e si parla di lobby gay, e c'è del vero, c'è. Vediamo cosa possiamo fare. Dunque, anche Avvenire, seppur all'interno dell'articolo, cita appunto quelle che sono le frasi che riportate e che bisogna capire se attribuibili a Papa Francesco, ma certo hanno già fatto il giro del mondo anche il giornale La Parola di Papa, lobby gay nella curia. Questi i titoli su questa notizia, sulla quale molti quotidiani aprono. Noi invece, dopo la pubblicità e il meteo, ripartiremo da che cosa? Beh, dall'economia. Tutti appesi a capire in Germania cosa faranno sullo scudo antispread. Si parla di giovani, di lavoro, del decreto del fare. e poi di politica, tra poco. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora, eccoci qua a parlare intanto dell'economia. Tutti sono con il fiato sospeso per capire a livello economico europeo e finanziario europeo che cosa deciderà la Corte Costituzionale tedesca. Da due giorni, o meglio da ieri c'è stata la prima udienza, la Corte Costituzionale tedesca deve decidere che cosa? Deve decidere se il cosiddetto scudo anti-spread, quel sistema previsto per salvare gli stati in difficoltà, cosa che peraltro per ora non è stato ancora utilizzato e richiesto da nessuno, sia costituzionalmente valido in Germania. Perché, come racconta bene il Sole 24 Ore a pagina 2, chi si è rivolto alla Corte? 35.000 cittadini, a capo di questi c'è il leader di Cristiano Democratici Bavaresi, Peter Gauweiler, dell'ala conservatrice del partito di Angela Merkel, hanno contestato la legittimità del programma OMT, il cosiddetto scudo anti-spread outright monetary transactions previsto dalla Banca Centrale Europea. La Corte Costituzionale deve pronunciarsi, potrebbe decidere che questo sistema deve prevedere dei limiti come non è previsto invece, visto che è previsto dalla Banca Centrale Europea un accesso illimitato al potere di acquisto da parte della Banca Centrale, appunto, dei titoli di Stato del paese che lo chiede. Oppure potrebbe bocciare in tutto, perché contrario alla Costituzione tedesca questo strumento, in tal caso certo non si potrebbe imporre comportamenti alla Banca Centrale Europea, che rimane indipendente, ma la Bundesbank non sarebbe più in grado di avallare all'interno del board le decisioni dell'istituto centrale. Insomma, si potrebbe aprire un contenzioso di altre corti costituzionali in Europa che potrebbero contestare questo sistema se altre persone andranno a ricorrere alle corti costituzionali dei paesi europei. Insomma, potrebbe essere anche un qualcosa di drammatico dal punto di vista finanziario, tanto che duello BUBA-BCE e la Bundesbank tedesca BCE sul piano di Draghi. Perché? Perché ieri il presidente, nonostante Angela Merkel abbia detto il sistema è valido, nonostante il ministro delle finanze tedesche Schäuble abbia ammonito i giudici della Corte Costituzionale a non spingersi troppo in là nel giudicare la BCE, invece il presidente della Bundesbank tedesca Weidmann, che già in passato era stato molto critico in questo sistema, ha insistito dicendo, insomma, i suoi dubbi su questo sistema. C'è da dire che per ora il presidente della Corte Costituzionale tedesca Voskuhle ha detto: non ci interessa il successo del piano, ma solo se è conforme alla Costituzione tedesca. Avete capito in Germania come si reagisce? L'allarme, racconta Isabella Bufacchi, di cosa succederebbe in Italia se venisse bocciato il piano Draghi, così è definito. Beh, senza la rete di sicurezza degli OMTS, come racconta Isabella Bufacchi, appunto siamo a pagina 2 del Sole, senza cioè la possibilità che la BCE possa acquistare titoli di Stato italiani con vita residua tra un anno e tre anni sul secondario, il rendimento del BTP decennale rischierebbe di tornare subito a livello del luglio 2012, attorno al 6-5%, per poi il rischio che possa schizzare a quota 7-8% come nel novembre 2011, nel caso di un peggioramento dell'andamento dell'economia. In un contesto politico anche un po' che fa fatica a fare le riforme, ma adesso arriva il decreto del fare, aperta e chiusa parentesi. Comunque, diciamo che c'è tanto allarme, c'è tanta tensione, c'è tanta preoccupazione e si guarda tutti alla decisione di Karlsruhe, che potrebbe arrivare credo domani, insomma, comunque nei prossimi giorni. Ieri c'è stata la prima udienza. Che la situazione economica in Europa, in altri paesi, voglio andare in Grecia, sia difficile lo testimoniano gli articoli sulla Grecia e su quello che è stato deciso dal governo riguardo la TV di Stato, TV e radio di Stato. Pensate un po', cari ascoltatori, ieri hanno annunciato dalla mezzanotte di oggi, cioè quindi da ieri, la TV di Stato ellenica della Grecia spegne il segnale. Ma così, troppi costi. 2.800 persone lasciate a piedi, licenziate. Grecia sotto shock, la crisi spegne la TV. Giuseppe Sarcina, pagina 3 del, pagina, scusate, 19 del Corriere della Sera. L'annuncio del governo: troppi sprechi, da stasera chiude la rete pubblica. Ma così è messa anche a pagina 2 del Sole 24 Ore. Atene costretta a chiudere la TV di Stato, con Vittorio Darold. Il paradiso degli sprechi, la TV pubblica greca, la RTE, verrà chiuso temporaneamente dalla mezzanotte di oggi. I suoi 2.800 dipendenti verranno licenziati. Con questo annuncio secco, il portavoce del governo ha spiegato che la RAI greca sarà sostituita da una struttura moderna, non di proprietà dello Stato, che opererà con personale molto ridotto. Così, clic, spento. Avete capito anche da questo qual è la situazione in alcuni paesi? Repubblica: la Grecia spegne la TV di Stato, stoppa le trasmissioni da ieri notte. Piano d'Italia: ovviamente i dipendenti protestano, la polizia circonda la sede, si temono nuovi scontri. Ferme le 5 reti televisive, le 29 stazioni radio della RTE. Sospesi 2.800 dipendenti, che poi vuol dire licenziati, sospesi. Ovviamente c'era la battaglia sindacale. Ecco, Libero mette questa notizia affiancata alla notizia italiana. Pagina 4 di Libero: paese che vai, RAI che trovi. Atene chiude la TV di Stato, la tarantola assume l'autista. La tarantola è Anna Maria Tarantola, presidente della RAI italiana, che scrive Libero con Enrico Paoli. È riuscita a far assumere il proprio fidato autista, merito o colpa, dipende dai punti di vista, delle direttive imposte alla RAI dalla nuova dirigenza, tra cui il divieto per le figure dirigenziali di servirsi di autisti non inquadrati tra il personale RAI. Questa è una bella grana, racconta Libero, per la tarantola, abituata fin dai tempi di Banca Italia a spostarsi sempre in compagnia del proprio chauffeur di fiducia, il quale però aveva il problema di non essere un dipendente della RAI, ma di un servizio di noleggio con conducente. Da qui il dilemma: come continuare a usufruire dei suoi servigi senza infrangere le regole di comportamento? La risposta, come di consueto, è l'uovo di Colombo: si assume l'autista in RAI, e così l'incomodo è bello risolto. La decisione non ha mancato di suscitare perplessità in consiglio di amministrazione, con il consigliere Antonio Verro che dice: la situazione dei conti in RAI già è molto problematica, la decisione di aggiungere costi vivi in un momento come questo è difficilmente comprensibile. Cioè, secondo Libero, ma si è fatto assumere l'autista in RAI, e così è l'autista della RAI. Vabbè, intanto arriva appunto il decreto del fare, così è stato ribattezzato dal ministro Franceschini, e così sarà questa ossessione che ci porteremo dietro nei titoli dei giornali. Il governo accelera sul decreto del fare, pagina 7 del Sole 24 Ore. È un decreto che, se applicato e se diverrà dal decreto del dire, quello che è per la verità adesso, al decreto del fare davvero, porterà davvero a tante cose in termini di semplificazioni, contratti, fondi europei, IVA. L'abbiamo specificato ieri, c'era tutte le anticipazioni sul Sole 24 Ore. Fossero fatte queste cose, sarebbero cose molto buone. Per ora ci si scontra un po' con la realtà. Una di queste riguarda per esempio il dato che viene spiattellato a pagina 5 del Corriere della Sera da Lorenzo Salvia. L'articolo riguarda il commercio e la crisi del commercio. Pensate questo dato: magari, come scrive Lorenzo Salvia, c'è chi esagera. Confesercenti dicono: in 10 anni non ci saranno più negozi. Sembra più una profezia dei Maya che una profezia realistica. Ma la crisi del commercio, che è davvero una realtà, si tocca con mano: ogni 3 mesi 18.000 negozi in meno. Cioè il saldo tra le aperture di nuovi negozi e le chiusure segna meno 18.000 nei primi 3 mesi di quest'anno, più morti che nati. Con questo trend o si fa qualcosa, chiaro che il declino è assicurato. Invece l'economia la lasciamo, andiamo alla politica. La politica si discute soprattutto di Beppe Grillo e il suo diktat via la senatrice che lo ha accusato. Ripartiamo da qui dopo il traffico. E allora eccoci, prima di tuffarci nella politica in questi pochi minuti ancora di rassegna stampa, giusto una precisazione: visto che sono stato bacchettato, è giusto, la decisione della Corte Costituzionale tedesca arriverà a settembre-ottobre in Germania. Prima fanno votare, visto che si prevede la votazione a settembre, prima il voto e poi la decisione della Corte Costituzionale tedesca sul piano salva stati. La politica italiana, ancora per un giorno, so che quelli del Movimento 5 Stelle si arrabbiano, ma sono sui giornali non per quello che dicono facciamo, proponiamo, ma per i litigi. Litigi che sono stati, acuiti dopo un'intervista che la senatrice Adele Gambaro ha rilasciato dicendo il problema è Beppe Grillo, in maniera proprio così testuale, la sua violenza, i suoi post contro il Parlamento. Oggi questa dissidente, come viene definita, accusa e rilancia in una serie di interviste La Stampa, Il Secolo XIX, Repubblica. Ma che pentita, ma di cosa? Io non ritratto nulla, ho detto quello che penso, dice per esempio ad Andrea Malaguti sulla Stampa. I post violenti di Grillo hanno danneggiato il Movimento 5 Stelle. Lui è stato parte del problema, soprattutto con l'ultimo post sul Parlamento. Grillo, che prima nel pomeriggio aveva lanciato un referendum su se stesso, cioè la rete decida se sono io il problema, poi invece di fronte a questa accusa ha detto non conta niente, non vale niente, se ne vada fuori dal Movimento 5 Stelle. Insomma, un'espulsione praticamente bella e buona. Grillo caccia senatrice, così titola il Corriere della Sera, pagina 10, referendum su di me. E così Repubblica, rivolta contro il diktat di Beppe, i falchi vanno in minoranza, ognuno è libero di parlare. Vabbè, insomma, c'è ogni giorno questo psicodramma raccontato dai mezzi di informazione su quelli che sarebbero, secondo il Corriere della Sera, i 30-40 eletti del Movimento 5 Stelle che pensano alla scissione. Questo in un articolo di Emanuele Buzzi che trovate a pagina 11. Mentre fa da discutere forse anche l'intervista che un senatore del Movimento 5 Stelle, Bartolomeo Pepe, rilascia a Claudio Marincola su Il Messaggero, trovate l'intervista a pagina 6, dice il senatore Pepe: la verità è che Beppe fisiologicamente non può reggere, non dura un'altra legislatura, ha quasi 65 anni, lei ce lo vede a 70 nelle piazze che si incazza ancora? Noi siamo troppo Grillo dipendenti. E poi dice questa frase: dureremo una legislatura, siamo destinati ad autodistruggerci. Beh, messa così, la frase dà il titolo: Pepe, siamo destinati all'autodistruzione. Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle che parla del suo stesso movimento sul Messaggero. D'altra parte c'è Berlusconi che, dopo la batosta elettorale delle amministrative, pensa al nuovo Popolo della Libertà. Vertice con Berlusconi, secondo Repubblica, che fa il retroscena, che appare più informato, comunque più pronto a una svolta. Berlusconi accelera sul cambio, entro luglio lancio il nuovo partito. Tra l'altro spettacolare nel teatrino della politica la dichiarazione del sottosegretario Biancofiore, che dice: loro hanno Renzi e noi cercheremo una Renza. Anche noi abbiamo delle Renze insieme al Popolo della Libertà. Ecco, è ripartito ufficialmente il teatrino della politica. A proposito di Silvio Berlusconi, c'è un articolo di Franco Bechis, che è sempre molto bravo sul Libero a fare i conti anche in tasca alla famiglia Berlusconi. Il titolo è questo: la crisi dell'immobiliare, Silvio tradito dal mattone, persi 50 milioni di euro. Proprio quel mattone che fu alle origini delle sue fortune ha fatto trascorrere un anno orribile a Silvio Berlusconi e alle aziende immobiliari del gruppo. Fra il raddoppio della tassazione dovuta all'IMU, la caduta verticale dei valori di mercato, il mattone ha sottratto al cavaliere e al suo gruppo l'anno scorso più di una cinquantina di milioni di euro. L'entità del buco, scrive Bechis, sta emergendo in questi giorni man mano che vengono depositati ai registri delle camere di commercio i bilanci delle immobiliari controllate direttamente o indirettamente attraverso Fininvest. La perdita operativa più consistente viene da Fininvest Sviluppi Immobiliari, società che fra l'altro ha la proprietà di Villa Gernetto, e nel 2012 il rosso è ammontato a 14.575.000 euro. Ma insomma, cattivi affari anche a Dubai, a New York, a Forte dei Marmi. E pare che nel mattone Berlusconi sia incappato davvero in un annus horribilis, così racconta Libero con Franco Bechis: persi circa 50 milioni di euro. C'è qualche problema anche per la Lega. Dopo il KO, Maroni anticipa il congresso. Maroni, che oggi fa un'intervista sul Sole 24 Ore e parla di economia, rilanciamo la Lombardia, rilancia trattenere le tasse del 75%, e quindi con questi 8 miliardi in più in Lombardia investire, tagliare l'IRAP, rilanciare sull'economia. Parla meno, più di economia, di cose da fare, meno di politica. La politica invece affrontata dagli altri giornali con Flavio Tosi, per esempio, sindaco di Verona e anche segretario della Lega in Veneto, che dopo la scoppola hanno perso anche a Treviso, viene intervistato da Repubblica, dice: non mi dimetto, è una sconfitta secca, ma chi chiede la mia testa è senza un voto. L'intervista la trovate su Repubblica, Rodolfo Sala, a pagina 4, anche se il Corriere fa sapere nella Lega inizia il processo a Tosi. Questo è il titolo del Corriere a pagina 17, la disfatta in Veneto, Maroni frena, ma domenica c'è un vertice tra i big. Vabbè, la politica, diciamo, è tutta qui. Voglio chiudere con una notizia che ci porta sempre nel fantastico mondo della giustizia, con le sue storture a volte, le sue procedure poco capibili che creano dei problemi. Peppe Rinaldi su Libero: termini scaduti, liberi due capo clan. Succede a Napoli. Chissà di chi sarà la responsabilità stavolta. L'uscita anticipata dal carcere di due esponenti di spicco della camorra. Sarà colpa dei toner, delle stampanti esaurite, del personale ausiliario che manca, dell'affanno quotidiano dei cancellieri? Non si sa, le responsabilità in Italia incarnano concetti quasi sempre eterei, impalpabili, specie se nel discorso c'entrano a vario titolo i magistrati. Comunque, il dato di fatto, Antonio Scognamillo e Agnello Ruocco, camorristi, sono stati scarcerati, sebbene dovessero scontare 4-5 anni di carcere, perché i cosiddetti termini di fase, cioè un periodo eccessivo trascorso durante il quale tra il primo del grado e l'appello, hanno portato alla scarcerazione. Liberi, liberi e belli, due camorristi, presunti tali, perché per errori di procedure. Vabbè, andiamo al giornale radio, ripartiamo alle 8:15 con questa domanda: siete disposti, e a che cosa siete disposti a rinunciare in termini di privacy in nome di una presunta lotta al terrorismo, lo scandalo Datagate degli Stati Uniti?